Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. In corso in questo momento la conferenza stampa del Presidente del Consiglio uscente Mario Monti dopo l'accordo arrivato circa 40 minuti fa sul budget europeo. Monti ha appena dichiarato che per l'Italia vi saranno minori oneri, minori costi per circa 600 milioni di euro e ha commentato che il bilancio europeo, l'accordo raggiunto per il bilancio 2014-2020 risulta soddisfacente. Io direi di farlo sentire in diretta visto che è in corso la conferenza stampa. Quadro finanziario, infatti, quello che dopo questo lungo negoziato è stato oggi raggiunto è un accordo politico del Consiglio europeo. Adesso ci sarà la fase di interlocuzione con il Parlamento. L'Italia è stata tra i governi che più si sono battuti per tenere conto delle richieste del Parlamento, perché pensiamo che siano in linea con le esigenze di una Unione Europea che guarda al futuro, oltre a ritenere noi che il Parlamento sia un'istituzione da valorizzare per l'ancoraggio democratico della vita comunitaria. Siamo stati fra coloro che più si sono battuti per tener conto delle richieste del Parlamento e grazie ai continui contatti che abbiamo avuto sia col Presidente del Parlamento Schulz che col Presidente del gruppo PPE Dohl, siamo riusciti, diciamo, grazie a questi contatti e alla presenza incisiva del Presidente Schulz nella prima parte del Consiglio ieri pomeriggio, alla quale poi ci siamo costantemente riferiti nel corso delle riunioni, non più in presenza del Presidente del Parlamento europeo, si è potuto raggiungere l'accordo in seno al Consiglio sul livello di 960 miliardi per gli impegni che era stato indicato come red line, come limite dell'accettabilità da parte di entrambi i presidenti per quanto riguarda il Parlamento europeo. Siamo consapevoli che, come appare dalle prime dichiarazioni, traspare una notevole delusione riguardo al livello dei pagamenti come distinto da impegni, ma nel corso del processo di adozione del regolamento sul quadro finanziario pluriennale ci impegneremo per facilitare la ricerca di soluzioni adeguate. Una parola conclusiva. Sono soddisfatto di questo risultato. C'è stata un'ottima preparazione, lasciatemelo dire, guidata dal ministro Moavero con l'impegno dei ministri Barca e Catania, dell'ambasciatore Nelli Feroci e di tutta la nostra equipe. Abbiamo negoziato duramente, ho messo il Consiglio europeo di fronte alla concreta possibilità di un veto, concreta e credibile, perché i colleghi ricordano bene il veto effettivamente posto dall'Italia il 28 giugno scorso sul patto per la crescita, quando abbiamo condizionato l'approvazione del patto sulla crescita ad un accordo sui meccanismi per la stabilizzazione dei mercati dei titoli di Stato da parte dell'Euro Summit, accordo poi raggiunto all'alba del 29 giugno. Anche stanotte la nostra battaglia, il nostro lavoro per una soluzione che fosse più adeguata a livello europeo e soprattutto più equa per l'Italia si è svolta e questo risultato è stato conseguito nella fase conclusiva del Consiglio, e quando ci siamo salutati diversi capi di governo si sono rallegrati, e alcuni di loro che sono veterani del Consiglio europeo hanno detto che mai l'Italia aveva ottenuto un risultato così buono. Forse lasciamo in sede di risposta ecco, il ruolo dei miei termina colleghi, la prima parte della conferenza stampa che stavamo ascoltando in diretta da parte di Mario Monti a pochi minuti, diciamo mezz'ora dall'accordo raggiunto in Europa sul budget europeo. Cerco di riepilogare assieme a voi che l'accordo su cosa è stato trovato. Ricorderete, ne abbiamo parlato anche ieri, c'erano i rigoristi, quelli che volevano più tagli e più austerità, Gran Bretagna, Svezia, Olanda e Danimarca, quelli che erano d'accordo sull'ammontare complessivo ma chiedevano che venisse ripensata la distribuzione, cioè Spagna, Italia, Francia, soprattutto Roma e Parigi difendevano i finanziamenti all'agricoltura, mentre Spagna e anche Italia erano più interessate ai cosiddetti fondi di coesione, i fondi per le aree meno sviluppate. E poi c'era una posizione intermedia della Germania che chiedeva comunque uno sconto su quanto versava attualmente. Allora, l'Italia, che è un paese che versa più di quanto riceva, ha un saldo negativo infatti accumulato nel periodo 2007-2011 di 4 miliardi e mezzo, cioè abbiamo versato 4 miliardi e mezzo in più di quanto non abbiamo ricevuto. Ebbene, dicevo, ottiene uno sconto, cioè nel periodo 2014-2020 avremo sempre un saldo negativo, cioè verseremo più di quanto non ci venga ridato, ma con circa 600 milioni di euro in meno, quindi 4 miliardi, poco meno di 4 miliardi contro i 4 miliardi e mezzo. L'Italia però guadagna anche 1,5 miliardi di euro per le regioni meno sviluppate, e qui lasciatemi fare una nota, sarebbe però il caso che le regioni del sud soprattutto imparassero a usare queste risorse, non farsene scippare, perché poi finiscono altri paesi in via di sviluppo, altre aree che vanno aiutate nell'Europa, e soprattutto delle volte per riuscire a tenere lì i soldi europei si fanno dei bandi, delle gare allucinanti, assurde, che servono solo a aumentare gli sprechi e le inefficienze. Penso ai tanti corsi inutili di formazione. Ma detto questo, l'Italia ottiene 1,5 miliardi per le regioni meno sviluppate e, grazie dei fondi ad hoc stanziati per i paesi più colpiti dalla crisi. Il Presidente del Consiglio uscente Monti ha anche detto che comunque, eccolo qua, la cifra finale è 3,8 miliardi il saldo negativo contro i 4,5 miliardi dei 4 anni precedenti, per cui c'è un miglioramento in un saldo negativo, cioè ripeto, tra quello che noi diamo e quello che riceviamo daremo 600 milioni di euro in meno. Definito soddisfacente il risultato da Mario Monti, però poco fa c'è il leader del Parlamento europeo, Joseph Daul, Hannes Svoboda, Guy Verhofstadt e Daniel Cohn-Bendit hanno definito inaccettabile l'accordo di bilancio perché non rafforza la competitività ma la indebolisce e crea deficit. Allora, l'Italia può essere contenta? Sì, ne parleremo anche dopo. Comunque c'è un miglioramento, ripeto, invece che 4,5 miliardi in meno riceveremo 3,8 miliardi in meno rispetto a quanto versiamo, e quindi c'è un miglioramento. Il budget complessivo viene definito in 960 milioni di euro di impegni, altri 908 di pagamenti. 6 miliardi vengono stanziati in Europa per i disoccupati e 1,5 miliardi per l'Italia, appunto, come dicevo, per le politiche di coesione per l'Italia. Questa è la notizia di apertura. Poi oggi avremo anche ospite l'amministratore delegato del gruppo Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. È chiaro che non parleremo delle indagini, ma della situazione che ha trovato nella banca, di dove tiene i suoi soldi, se ritenga o meno che alla fine sarà inevitabile l'ingresso dello Stato o del Tesoro nel Monte dei Paschi, e via così. L'appuntamento è tra circa mezz'ora, e poi come sempre le altre notizie, a partire dalla borsa: più 1,30% in questo momento Milano, più 1,20% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,60% Londra. Tra i titoli, oggi in recupero alcuni bancari, direi la maggior parte, Popolare di Milano più 4,17, Ubibanca più 4% e ancora Mediobanca più 4, Unicredit più 3,25, Generali più 2,15, Mediolanum più 2,15, Intesa più 2% sul fronte bancario. Mentre sugli altri titoli cito Fiat più 2,61% e anche Pirelli più 2%. Chi va male invece? Telecom Italia meno 1,56%, parleremo di Telecom, rinviata la decisione sulla 7 su Telecom Italia Media nei conti diffusi oggi. Saipem meno 1,15, Eni, volete sapere, dopo il tonfo di ieri un leggero recupero ma non sufficiente, più 0,45%, vale anche per Snam Rete Gas più 0,45%. Ultima cifra è quella per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook, sempre per intervenire nel programma. Allora, volete sapere, alcuni di voi mi chiedono di Oscar Giannino, dice sempre che lo invita, no, abbiamo detto che l'avremmo invitato e ieri è stato ospite per un'ora da Simone Spezia in programma 9 in punto, dopodiché Oscar tornerà a intervenire, io lo vorrei molto volentieri, abbiamo un piccolo problema di par condicio, visto che è stato ieri ospite in un programma, inutile che vi spieghi come funziona il par condicio, ma insomma... i calcoli sono due, gli ospiti nei GR e gli ospiti nei programmi, deve esserci un equilibrio, per cui Oscar Giannino verrà, è un amico, spesso non condividiamo alcune ipotesi, alcune ricette, ma ho sempre detto che da loro e dal, devo dire anche dal Movimento 5 Stelle sono arrivate delle indicazioni molto concrete, i grandi partiti sì, fanno grandi dichiarazioni, adesso ho visto l'ultima, 4 milioni di nuovi occupati, io ripeto, vale per tutti, per PDL, per PD, o spiegate come si ottengono queste cose, qual è la copertura necessaria, o sono tutte così dichiarazioni da campagna elettorale, ma con questa situazione inviterei i leader che poi si candidano a guidare il paese a non fare discorsi eccessivamente da bar, ossia 4 milioni più di disoccupati, leviamo l'IMU, ci saranno i condoni, ma poi bisogna capire, reggi la cosa oppure no? Allora, o ci spiegano la copertura o se no diciamo... E soprattutto ci dovrebbero dire se è vero o no che vi sarà bisogno di un'altra manovra aggiuntiva perché il PIL va peggio del previsto e quindi il deficit sarà più alto del previsto e se ci sarà modo di evitare che l'IVA in automatico scatti al 22% come previsto dalla manovra finanziaria, per cui io questo vorrei sapere più che dichiarazioni così. Vabbè, oro poco mosso a $1,671 al barile, petrolio $94 all'once, petrolio $94 al barile. Per quello che riguarda le agenzie di rating non c'è pace, lo dico un po' scherzando, perché il Dipartimento di Giustizia americano e altri stati americani stanno valutando la possibilità di un'azione legale anche contro Moody's, l'altra grande agenzia di rating americana dopo Standard & Poor's, visto che una causa simile è stata avanzata contro Standard & Poor's e tra l'altro lo Stato americano dovrebbe chiedere 5 miliardi di euro di danni per i voti dati su strumenti derivati legati ai mutui poi rivelatesi ad altissimo rischio e invece appunto che ottenevano ancora voti abbastanza alti da parte delle agenzie di rating. E poi il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, ha avviato un'indagine sulla condotta delle tre maggiori agenzie di rating. Questo non è il Dipartimento di Giustizia, è il procuratore di New York. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti secondo le quali in settimana Schneiderman avrebbe inviato mandati a Standard & Poor's e richiesto formalmente informazioni a Moody's e Standard & Poor's per esaminare i voti che hanno emesso durante la crisi su alcuni titoli poi rivelatisi rischiosissimi, in alcuni casi falliti. Allora, un ascoltatore ci chiede se abbiamo saputo poi chi fu la famosa manina che vendette il giorno prima dell'annuncio di Saipem di utili in netto calo e fatturato in netto calo, che portò il titolo a perdere il 35% in borsa. Vi ricordate che un azionista importante cedette la sua quota del 2% il giorno prima. Tra l'altro noi abbiamo fatto il calcolo, era molto facile, risparmiando in questo modo una perdita di 100 milioni di euro. No, io il nome non ce l'ho ancora, adesso mi è sfuggito, ma deve arrivare per notifiche Consob a un certo momento, per cui adesso andiamo a controllare. Comunque grazie per la segnalazione. La Germania, export record nel 2012, oltre 1000 miliardi di euro, più 3,4%, è il livello più alto da quando sono iniziate le serie storiche, dal 1950, il livello più alto soprattutto nel surplus, cioè nella differenza tra quanto la Germania esporta e quanto importa. E quindi la Germania, tutto sommato, anzi senza tutto sommato, è il paese che, diciamo, questa crisi non la sente. Merito dei tedeschi sicuramente, però ripeto, vista la polemica sull'euro, o siamo una famiglia in cui se è un fratello sta bene, continua a guadagnare, dà una mano anche agli altri fratelli, pur chiedendo garanzie in cambio e anche rigore, risparmio, oppure se qua ognuno deve andare per sé e magari avvantaggiarsi delle debolezze altrui, è inutile parlare di Unione Europea, di euro, di casa europea. Non è una casa, è un albergo a questo punto. Nel frattempo il colosso tedesco dell'acciaio ThyssenKrupp ha fatto sapere che ha intenzione di tagliare almeno 2.000 posti di lavoro in Europa, sono 27.600 i suoi dipendenti, e anche nella sede centrale di Duisburg in Germania, mentre in Francia c'è un'ipotesi molto forte che lo Stato francese possa entrare nel capitale del gruppo automobilistico Peugeot Citroën, PSA Peugeot Citroën. Perché? Perché hanno annunciato uno straordinario calo degli utili e già i dati della prossima settimana potrebbero essere pesantissimi. Come va lo spread italiano? Per un po' non ce ne siamo occupati, adesso però è giorni che è tornato a salire, due le vicende citate da tutti i giornali, la debolezza del sistema bancario evidenziata dal Monte dei Paschi, e quindi la vicenda Monte dei Paschi, e diciamo l'incertezza della campagna elettorale. Lo spread è a 300 punti, è tornato anche a 302 punti. Nel frattempo la Banca d'Italia fa sapere che continuano a calare i prestiti delle banche alle famiglie e anche alle imprese. Meno 0,5% dicembre i prestiti alle famiglie, meno 2,2% i prestiti alle imprese. È vero che alle imprese si erano prestati meno soldi anche a novembre, meno 3,4%, però io dico una cosa: è sicuramente vero che ci sono meno compravendite immobiliari, che le famiglie hanno magari meno intenzione di comprare casa. È sicuramente vero che le imprese chiederanno anche meno soldi, perché quando un'impresa è in difficoltà è difficile che chieda soldi per investire, e magari chiedono prestiti per spese correnti e non per grandi investimenti. Però detto questo, non ce la si può cavare solo così, lo dico al mondo bancario, perché non solo è stato fatto notare che più volte che da noi il tasso con cui si prestano i soldi a imprese e cittadini è più alto della media europea, ma proprio ieri Mario Draghi ha mantenuto i tassi invariati allo 0,75%. Allora, al di là della denuncia dei Codacons che dicono che le banche non sanno più fare il loro lavoro, prestare soldi sul territorio, raccogliere e prestare soldi sul territorio, ma fanno solo investimenti speculativi, dico attenzione, perché il sospetto che le banche in questo momento stiano puntando più su BOT, BTP o peggio ancora altri strumenti per non aver voglia o non sapere o non volersi prendere rischi nei confronti dei privati, imprese o cittadini, è un sospetto molto forte, e molti direttori di banca ci scrivono Attenzione, l'ordine è dare prestiti col contagocce. Sarebbe un errore, la banca non è un soggetto che raccoglie i soldi sul territorio e li investe in bot, in strumenti derivati o finanziari, eh? La banca è un soggetto che raccoglie i soldi sul territorio e li reinveste sul territorio con una sana e prudente gestione, che si è vista poco, tra l'altro. La produzione industriale italiana intanto nel 2012 tocca il livello più basso dal 1990, un'altra bella notizia. L'indice grezzo risulta pari a 82,9 punti, è il livello quanto a punti più basso almeno dal 1990, da quando esiste la serie storica. È un po' salita a dicembre su base mensile, vabbè. Mentre oggi c'è una notizia che riguarda anche la Corte dei Conti, che ha detto sostanzialmente punteremo il faro sui derivati perché i rischi sono molti e imprevedibili. Gli enti locali dovrebbero adottare doverose iniziative volte alla risoluzione di contratti eccessivamente onerosi, altrimenti c'è il rischio che vi sia una colpa grave degli amministratori. Ancora ultima notizia, non si è voluto pronunciare sul caso del Monte dei Paschi, ma il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier ha detto la giustizia ha gli elementi per valutare chi ha fatto che cosa. Oggi ha incontrato la stampa a Roma. Vi sono comunque nuove regole in Europa sul settore dei prodotti finanziari derivati che a livello mondiale hanno un giro d'affari totale di 600.000 miliardi di dollari. Pensate che di questi 600.000 miliardi di dollari che valgono i derivati, l'80% è fuori dai mercati regolamentati. Queste sono armi di distruzione di massa. Poi magari no, non abbiamo tempo oggi di far sentire Wall Street 2 quando le definiva armi di distruzione di massa non regolamentate. Da qualche parte, secondo me, questa questione andrà affrontata, se no stiamo ricreando le basi per lo scoppio di una nuova bolla finanziaria per eccesso di rischi che uno ha accolto. Di nuovo in diretta alle 17.35 minuti con Sebastiano Barisoni per concludere anche l'approfondimento sull'accordo raggiunto a Bruxelles. Leggo le ultime agenzie, anche il premier britannico David Cameron è molto contento, il popolo britannico può essere orgoglioso, abbiamo messo un limite alla carta di credito dell'Unione Europea, 908 miliardi di spese, questo è l'accordo raggiunto, 960 miliardi di impegni e 908 di pagamenti. Nel bilancio ci sono anche i fondi per il finanziamento delle grandi reti di trasporto europee, tra cui la Torino-Lione, lo ha detto il presidente francese François Hollande. Ha seguito tutta questa maratona, perché nella notte hanno lavorato gli Sherpa cosiddetti, le bilaterali tecniche, il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Buonasera. Buonasera. Allora Beda, immagino che poi tu sia molto impegnato, però volevo una tua prima analisi. Contento Monti perché dice risparmieremo 600-700 milioni di euro, nel senso che il saldo negativo per l'Italia non sarà più come nei 4 anni precedenti di 4 miliardi e mezzo, cioè abbiamo versato 4 miliardi e mezzo in più di quanto non abbiamo ricevuto, ma sarà di 3 miliardi e 8, e poi c'è 1,5 miliardi che arriverà all'Italia per le politiche di coesione per le aree meno sviluppate. Contento Cameron, contento Hollande, c'è qualcuno che non è contento? Oh, probabilmente ci sarà, ma in questo momento non emerge. Mm. Ho l'impressione che in un modo o nell'altro l'accordo deve fare tutti contenti. Gli uomini politici non possono permettersi in questa occasione di tornare a casa recriminando o dicendosi scontenti, perché rischiano l'impopolarità. Ecco, come si è arrivati a conciliare le posizioni, diciamo, forse dei paesi del nord è un po' eccessivo, perché la Germania in realtà aveva una posizione mediana, ma comunque le posizioni della Gran Bretagna, da un lato, Svezia, Olanda, Danimarca, più rigoriste, con Chi invece, come Spagna e Italia, ma anche la Francia, difendeva i finanziamenti all'agricoltura e le politiche di coesione? Ma ho l'impressione che si sia giunti a questa soluzione per certi versi sacrificando alcune poste di bilancio. In particolare direi quelle poste che dovevano servire in un modo o nell'altro a rilanciare l'innovazione, le infrastrutture, le interconnessioni. Il pacchetto su cui si è trovato un accordo oggi prevede una forte riduzione di questa posta di bilancio rispetto alla proposta della Commissione presentata ormai qualche mese fa. Detto ciò, credo che vada la pena sottolineare che questa posta di bilancio è comunque 40% più elevata rispetto al bilancio 2007-2013. Quindi i governi hanno fatto uno sforzo per certi aspetti, evidentemente uno sforzo deludente agli occhi di molti osservatori, ma credo che il confronto in questo caso debba essere fatto con il bilancio precedente e non con la proposta della Commissione. Ah, quindi tu dici, cioè, rispetto all'ultimo bilancio c'è un più 40%, quindi alla fine, al di là della proposta della Commissione che partiva da oltre 1.000 miliardi, qui c'è un aumento della spesa e tutti quelli che chiedevano che non venissero fatti tagli eccessivi possono essere contenti. Ho forzato un po' la tua analisi? Quello che voglio dire è che la posta di bilancio all'interno delle prospettive finanziarie dedicata all'innovazione, alle infrastrutture, all'economia più innovativa, è una posta di bilancio che è ridotta rispetto alla proposta della Commissione, ma più alta rispetto, ma comunque in aumento rispetto al bilancio precedente 2007-2013. Grazie in collegamento con noi a Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Bruxelles. Allora, un paio di risposte. No, a parte il fatto che c'è un ascoltatore che mi fa impazzire perché sa già, dice che l'intervista a Viola sarà inutile. Vabbè. Perché sa già le risposte che darà Fabrizio Viola. Ma aspetti, magari non conosce le mie domande. Poi è chiaro che non è che Viola viene a dirci il Monte dei Paschi è fallito, né viene a dirci ragazzi abbiamo scherzato. Però forse tra le pieghe si riesce a ottenere qualcosa, no? Mi faccio provare almeno, no? Così. Già sa le risposte prima ancora che inizia a fare l'intervista a Viola, vabbò. E invece c'è qualcuno che mi scrive: abbia il coraggio, visto che parla del saldo negativo dell'Italia, di parlare del saldo negativo del nord del paese verso il resto del paese. Ma l'abbiamo detto più volte che Lombardia e Veneto versano più di quanto non ricevano. Dopodiché in qualunque paese d'Europa esistono aree più ricche e aree meno ricche, come in qualunque come all'interno dell'Europa esistono aree più ricche e aree meno ricche. Il punto è se i soldi che vengono trasferiti al sud vengono ben utilizzati oppure no, non vengono ben utilizzati. Questo è il punto. Ma non è immaginabile che, diciamo, un paese né un'Europa si tenga assieme facendo in modo che i ricchi si tengano le loro ricchezze e i poveri si arrangino. È immaginabile che non si possa non raccontare gli sprechi con infiltrazioni della mafia, dell'andrangheta, della camorra che raccontiamo ogni giorno delle regioni del sud. È immaginabile che gli elettori del sud caccino a calci gli amministratori che li hanno portati ad avere deficit sanitari in rosso, con ospedali che non servono perché poi vengono a farsi curare al nord. Questo è immaginabile, ma non tagliare quelle che sono politiche di coesione interne naturali, per favore, no? Vabbè, dai. Andiamo con la borsa. Borsa oggi che ha tentato un recupero, devo dire in linea col resto dell'Europa, più 1,40% Milano, più 1,35 Parigi, più 0,80 Francoforte, più 0,60 Londra. Euro su dollaro 1,33,73, tra i titoli Saipem meno 1,5, Telecom meno 1,20%, fronte opposto UbiBanca più 5, Popolare Milano più 4, Mediobanca più 4, Unicredito più 3,5, Fiat più 2,90, Azimut più 2,5, Mediolanum più 2,30 come Intesa San Paolo, Generali più 2,15 come Pirelli, il 2% lo guadagna A2A e anche la Popolare Emilia Romagna, ma anche Fiat Industrial, l'1,80 è il rialzo di Autogrill e di Todds, ma anche di ST Microelectronics, l'1,60% è il rialzo di Mediaset ed Exor, ma anche di Finmeccanica. Come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Vabbè, Eni, tagliamo la testa al toro, il rialzo non c'è, nel senso che ieri ha perso il 4%, c'è un tentativo di rialzo, ma poco. 0,58. 0,58, insomma, non è cosa. Saipem invece di nuovo negativa? Sì, Saipem, a dire la verità, ieri appunto era salita, al contrario dell'Eni, che erano state alle estremità opposte del listino, e oggi il titolo perde l'1,5, appunto realizzi dopo il rialzo di ieri. Naturalmente la società rimane sotto i riflettori proprio per le indagini sulla vicenda in Algeria. Ieri il management ha tenuto un'altra conference call per spiegare meglio al mercato la revisione dei target 2013 e non ha fornito indicazioni precise e sul fronte dei numeri. Diciamo che il mercato forse non ha apprezzato il fatto che i nuovi contratti che aveva annunciato la società sono comunque già compresi nei nuovi target, quindi non ci saranno sorprese positive su questo fronte. Bisogna dire che l'amministratore delegato ha comunque detto che i nuovi contratti segnalano una ripresa dei margini, quindi diciamo che su questo fronte si sta un po' spegnendo l'appeal speculativo sul titolo. Chi ieri ha guadagnato oggi è passato ai realizzi, diciamo che il titolo appunto ha un movimento più normale in questa giornata di oggi. Adesso andiamo a Telecom Italia, perché oggi diffusi i conti, il piano industriale. Allora, Telecom chiude il 2012 con ricavi in sostanziale tenuta, 29 miliardi di euro, e un margine operativo in calo del 2% a 11 miliardi di euro. Ancora, i risultati sono in linea con le attese degli analisti, il debito è calato a 28 miliardi contro i 30 miliardi di fine 2011, il monte dividendi però, cioè quanto verrà distribuito agli azionisti sotto forma di dividendo, l'utile da distribuire, cala a 450 milioni di euro, cioè è dimezzato, il dividendo quest'anno sarà la metà rispetto all'anno scorso, e nel caso specifico sarà per le azioni ordinarie di 2,97 centesimi per ogni azione, e per la cedola, per il risparmio la cedola sarà a 3,07 centesimi. Il titolo in borsa. Sì, intanto scusa, ti dico perché c'è stato un errore nella conference call di Telecom, il dividendo è di 1,97 centesimi, infatti mi sembrava un po' alto, 1,97, poi è diventato 1,97 proprio, mentre confermato il risparmio a 3,07. Sì, ok, perfetto. Il titolo in borsa diciamo che è arrivato nel corso della seduta a perdere anche oltre il 5%, quasi il 6% proprio sull'annuncio di questo taglio del monte dividendi. Poi nel corso della giornata sul finale ha ridotto di molto le perdite, ha chiuso in calo dell'1,26. Diciamo che il mercato poi si è concentrato sull'aspetto positivo che è stato individuato nell'impegno del management verso la riduzione del debito, che è da sempre un po' il tallone d'Achille di Telecom Italia. Proprio il taglio del monte dividendi viene letto come uno dei segnali in questo senso, e inoltre è piaciuto al mercato la delibera del CDA che ha deciso di emettere titoli ibridi fino a 3 miliardi nei prossimi 18-24 mesi. Diciamo che è uno strumento che, come ha spiegato il Presidente Franco Bernabé, e punta a garantire le risorse necessarie per la società per lo sviluppo del business e allo stesso tempo non pesare sugli azionisti come avrebbe fatto invece un aumento di capitale, che è la società, che è la soluzione scelta da altre società del settore, ad esempio l'olandese, certo. KPN l'ha annunciato nei giorni scorsi, questo il mercato l'ha apprezzato e quindi ha consentito al titolo di ridurre le perdite sul finale. Allora, i migliori e peggiori in assoluto, Seat pagine gialle, alla faccia di chi ci ha detto non ha più senso stare sul titolo, più 23,80%, Safilo più 9,30%, Bolzoni più 7,20%, Crédit Agricole più 6,60%, fronte opposto invece, El Venture Group meno 19%, B-Team meno 4,54%, poi poca roba, Bialetti meno 3,50%. Grazie, buon fine settimana a Paolo Paronetto e ai colleghi di Radio Cor, il Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora, Monte dei Paschi, iniziamo dalla cronaca, perché oggi il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier era a Roma e ha detto: noi abbiamo preparato regole sui derivati, c'è un mercato da 600 mila miliardi, il cui 80% non è regolamentato. Mi scrive un ascoltatore con aria un po' saccente, dice: ma lei non sa che la maggior parte dei mercati obbligazionari non sono regolamentati? Sì, ho capito, c'è il secondario, ma che non sia regolamentato un mercato rischiosissimo come quello dei derivati non me lo può paragonare al mercato delle obbligazioni dei titoli di Stato. Abbia pazienza. Comunque, sentiamolo al microfono, Michel Barnier, al microfono della nostra Laura Bettini. Conosciamo evidentemente bene il dossier Monte Paschi, ma è la giustizia che deve dire chi è responsabile e chi è responsabile di cosa. Tutto quello che so è che per tutte le banche europee, compresa questa banca, che è una banca storica in Italia, le regole che stiamo mettendo a punto, quelle che abbiamo già fatto adottare, porteranno a un quadro d'insieme più efficace, un quadro di vigilanza, appunto, di supervisione sia interna che esterna, soprattutto grazie alla Banca Centrale Europea, e quindi avremo migliore trasparenza, una migliore regolamentazione di quelli che si chiamano i prodotti finanziari derivati, un miglior governo interno, e con la proposta che farò quest'estate, che sarà una proposta che vuole separare in tutte le banche la gestione del rischio fra le attività a titolo commerciale per i risparmiatori e le imprese e, dall'altra parte, le attività sui mercati finanziari, da dove si parla di investimenti e spesso di speculazione. E dicevo, su tutti questi argomenti arriveremo per tutte le banche europee ad avere più trasparenza, ad avere più rigore, ad avere una migliore vigilanza o supervisione e quindi una protezione migliore per i clienti di queste banche, che sono i risparmiatori e i contribuenti. Ecco quello che penso. Nel frattempo, ieri, ieri poi le notizie, ma in realtà il CDA, il Consiglio di Amministrazione, c'è stato giovedì, il Monte dei Paschi ha quantificato in 730 milioni di euro la perdita da iscrivere al bilancio a causa delle operazioni sui derivati, nel caso specifico 273 milioni dell'operazione Alexandria, 305 milioni dell'operazione Santorini e 151 milioni nell'operazione Nota Italia. La prossima settimana emetterà 3,9 miliardi di Monti Bond. Nel frattempo le indagini vedono appunto indagato l'ex presidente Giuseppe Musseri, l'ex direttore generale Antonio Vigni, vari reati, falso in prospetto, manipolazione del mercato, e la finanza, come voi ricordate, ha sequestrato 40 milioni di euro scudati e riconducibili al vecchio management. Oggi non ci sono novità, però io vorrei parlare del futuro della banca. E vorrei farlo, ecco perché lo ringraziamo, con l'amministratore delegato del gruppo Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Come va? Bene. Ah. Bene. Meglio rispetto ai giorni scorsi. Il Consiglio di Amministrazione ha preso due importanti decisioni che sono ormai note. La prima è il perfezionamento dell'iter richiesta di Monte Bond, che a questo punto la cui erogazione dovrebbe essere prossima, e la seconda la chiusura dell'analisi sulla finanza e quindi il completamento di quello che ho definito l'operazione trasparenza sul portafoglio finanziario, che ha determinato l'impatto al 31/12/2012 di 730 milioni che lei ha ricordato, e un effetto positivo in termini di maggiore margine di interesse per gli anni successivi intorno a 25 milioni, ma la cosa più importante è che si è stata fatta chiarezza su un'area importante del bilancio della banca. Quindi lei esclude altre possibili sorpresine? Per quanto riguarda il portafoglio finanziario è stato oggetto di analisi praticamente immediatamente dopo l'arrivo dei dirigenti che oggi hanno la responsabilità della direzione finanziaria, in particolare il nuovo CFO Mangrone e il nuovo direttore finanziario Sergio Vicinanza. Questo lavoro è partito praticamente nel corso dell'estate e si è concluso oggi, quindi tendo a escludere che ci siano altre sorprese. Per quello che riguarda la parte appunto finanziaria, mi scusi, quanto difficile è stato poi far pulizia in tutte queste operazioni per voi? Ma guardi, cioè, nel senso, si sono, uno apriva, so che sembra un po' banale la domanda, ma voi vi siete messi a fare un controllo più accurato delle posizioni finanziarie della banca, avete scoperto questo, è stato facile oppure erano occultate, nascoste? Ma è indubbio che non abbiamo trovato tutti i documenti a portata di mano, anche perché se ci fossero stati probabilmente le operazioni sarebbero state contabilizzate correttamente. In particolare, come ormai a tutti è noto, la svolta in queste analisi l'abbiamo registrata quando siamo incappati nel documento, il famoso Mandate Agreement, relativamente all'operazione Alexandria, che legava di fatto l'operazione strutturazione dell'originaria operazione con l'attuale operazione in essere. Questa è stata un po', diciamo, è stato il punto di svolta che poi ho sentito di leggere sotto con altri occhiali anche le altre operazioni. Guardi, dottor Viola, adesso abbiamo il GR, però io dopo vorrei capire un po' di più. Cioè, ho capito, lei dice è stato difficile anche per noi, però insomma qui è inutile girarci attorno. Il tema resta gli ispettori della Banca d'Italia. È vero che non potevano vedere, secondo lei? È invece vero che forse hanno visto, ma la cosa è stata presa sotto gamba? E poi vorrei capire, visto che lei è arrivato, se si immaginava una cosa delle dimensioni che poi ha avuto il buco nel Monte dei Paschi. E sullo sfondo, abbia pazienza, sapere se alla fine, al di là dei vostri tentativi, non sarà inevitabile che lo Stato, sia il Ministero del Tesoro, entri nel vostro capitale, cioè lo ripagherete con azioni, quindi lo farete entrare nel capitale. 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e vi ricordo che siamo in collegamento con l'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Dunque, dottor Viola, come ricordavo prima dell'interruzione, torniamo sulla questione della vigilanza. Lei ci ha appena detto che era impossibile vedere quello che era successo nel Monte dei Paschi, che anche voi ci avete messo del tempo, però insomma, ieri Mario Draghi, che al tempo dell'operazione Antonio Veneta era governatore della Banca d'Italia, ha difeso l'operato della Banca d'Italia. Abbiamo fatto ascoltare anche quella frase, rumore elettorale, noises, molte delle polemiche che stanno avvolgendo la vicenda del Monte dei Paschi. Il Wall Street Journal, però, sempre ieri, ha parlato di un prestito di emergenza da 2 miliardi di euro che avrebbe erogato la Banca d'Italia a favore del Monte dei Paschi a fine 2011, che cambierebbe molto la prospettiva, perché vorrebbe dire che la Banca d'Italia era perfettamente a conoscenza della drammaticità del problema. Allora, secondo lei, da fuori, perché gli ispettori non sono né la magistratura né l'autorità giudiziaria, però da fuori, era in qualche modo possibile accorgersi di quello che stava capitando dentro il Monte dei Paschi? Guardi, dall'esterno era praticamente impossibile, nel senso che sono delle operazioni molto complesse anche da un punto di vista contrattuale. Ho letto in mano tutte le carte, quindi tutti i pezzi, le singole componenti dei contratti, e allora riesce a fare una costruzione di un certo tipo. Se non hai in mano tutto e dall'esterno, se evidentemente i dirigenti, i funzionari non danno le carte, non possono evidentemente riceverne in automatico. Se appunto non vengono dati tutti i documenti, è praticamente impossibile dall'esterno ricostruire esattamente l'operazione e contabilizzarla esattamente, perché la cosa che ha chiarita e forse aiuta a capire la situazione è che le operazioni erano evidentemente contabilizzate nei sistemi contabili della banca, tant'è che anche la stessa Banca Italia le aveva esaminate, ma mancando un pezzo i precedenti criteri di contabilizzazione risultavano tra virgolette corretti. Una volta che salta fuori il pezzo, a questo punto deve essere modificato anche il criterio di contabilizzazione. Quindi lei dice, insomma, non da fuori vedere quello che poi abbiamo visto spulciando era impossibile, no? Per chiarire anche sulla capacità di analisi degli ispettori della Banca d'Italia. Da fuori era impossibile, aggiungo anche, lo dico con grande onestà intellettuale, abbiamo modificato l'approccio contabile a ottobre dopo che abbiamo trovato il documento. Prima ci giravamo intorno, come può darsi, non c'ero a quell'epoca, ci abbiano girato intorno anche gli ispettori, ma non avevamo la prova documentale che dovesse essere modificato il criterio di contabilizzazione. Quindi anche noi dall'interno non riuscivate a vederlo. Senta, dottor Viola, per quello che riguarda invece adesso i prossimi passaggi, perché voi emetterete adesso perché il prestito che vi ha concesso il Tesoro funziona così: voi emettete delle obbligazioni, cioè chiedete un prestito al mercato che verrà completamente comprato, sottoscritto dal Ministero del Tesoro. Sarà pari a 4 miliardi a questo punto o 3,9? Perché mi sfuggivano 100 milioni. 3,9 più la quota, gli interessi che ci siamo obbligati a pagare sui vecchi Tremonti Bond. Ah, che okay. Secondo il vecchio contratto, come lei sa, in caso di perdite non era prevista il pagamento del coupon. Nell'ambito dell'operazione complessiva di emissione dei nuovi Monti Bond, la banca si è impegnata di fatto a pagare gli interessi maturati anche sui tre Monti Bond per la quota del 2012. Ok, quindi sono tre... Sono 4,071 miliardi, se non ricordo male la cifra esatta. Comunque voi emetterete questa obbligazione che verrà totalmente sottoscritta dal Ministero del Tesoro, e a questo punto gli interessi... Scusi. Prego. No, tra l'altro è obbligatorio che venga sottoscritto al Tesoro, non è un'obbligazione che mettiamo... No, certo. Dico, non è che qualcuno può entrare, è un prestito che voi chiedete attraverso l'emissione di un'obbligazione per 4 miliardi. Gli interessi sono altini, nel senso che sono al 9% e possono arrivare fino al 15%. Perché? Perché ogni 2 anni sale dello 0,5%, se ben ricordo. Perfetto. Ecco, voi potete, e questo è il punto, diciamo, su cui vorrei un maggior tipo di spiegazione, voi potete pagare in che modo il Tesoro? O contanti, e vabbè. Oppure emettete altri Monti Bond, ma questo vi andrebbe ad aumentare il vostro debito verso lo Stato, cioè emettete altre obbligazioni per pagare le obbligazioni in scadenza vecchie, un po' come fa lo Stato italiano. Oppure con azioni vostre, nel caso non abbiate abbastanza liquidità, nel caso non vogliate, perché non è conveniente, aumentare ulteriormente il vostro debito, potete dare al Tesoro azioni del Monte dei Paschi. In questo terzo caso avremmo un principio, seppur parziale, di nazionalizzazione. Le dico subito che noi non abbiamo nulla, non la riteniamo una bestemmia. In Olanda una settimana fa hanno nazionalizzato la quarta banca del paese, SNS Bank, 3 miliardi e 8, nonostante il rigore degli olandesi, nessuno si è mosso, nessuno ha battuto ciglio, lì l'hanno proprio comprata tutta, per cui non è che ci sia una pregiudiziale. Però vorrei capire onestamente se lei non ritiene che tanto alla fine il Tesoro dovrà, anche se per magari un tempo limitato, entrare nel vostro capitale. Allora, per quanto riguarda il meccanismo di pagamento delle cedole di questo prestito, la correggo leggermente, ma semplicemente perché lei ha fatto correttamente riferimento al term sheet. E in realtà la banca ha assunto un impegno che è stato, di cui è stato dato pubblicità quando c'è stata la definizione ultima delle caratteristiche dello strumento, un impegno comunque a evitare di pagare già a partire dal 2013 le cedole attraverso l'emissione di altre obbligazioni. Questo per diciamo rispondere alla richiesta che è stata fatta dalla Commissione Europea. Quindi di fatto le alternative sono due. Sono due, o date contanti o date azioni. O azioni. Allora, il meccanismo è molto semplice, funziona così. Ogni anno si fa quello che è definito in gergo tecnico test di capienza, ovvero si guarda se la banca ha generato utile netto sufficiente per pagare la cedola. Qualora l'utile non sia sufficiente, d'accordo, Per la quota residua la banca deve emettere azioni che vengono sottoscritte dal tesoro, quindi dedicate al tesoro, e in questo caso chiaramente, come lei diceva, c'è l'entrata di fatto del tesoro nel capitale della banca. Questo è il meccanismo. Per quanto riguarda l'altra domanda che mi ha fatto, la mia personale opinione, peraltro condivisa dal tesoro, è che la banca deve fare di tutto quello che è in sua possibilità per evitare che il tesoro entri nel capitale della banca, perché per motivi tutto sommato che se si riesce a evitare è meglio per tutti. È chiaro che c'è questa, e quindi di qui l'impegno che abbiamo assunto praticamente da luglio dell'anno scorso attraverso il piano industriale, con interventi sia sulla costi che lo sviluppo dei ricavi. Quello dei costi è molto più diciamo sotto il nostro controllo, e abbiamo fatto anche delle cose, abbiamo preso delle decisioni molto importanti che vanno nella direzione di ridurre la base costi della banca. Sui ricavi evidentemente è un po' più complicato, però l'obiettivo è quello di creare le condizioni per un pagamento per cassa e dei ceduli, e creare condizioni per anche un rimborso rateale, ma un rimborso. Sì, ho capito. Lei dice, insomma, faremo il possibile per rimborsare al tesoro i soldi, cioè cash, e non certo con le azioni. Lei ha escluso l'ipotesi di emettere altro debito. Adesso, dottor Viola, abbiamo il traffico. Io però su questo vorrei tornare, perché vorrei capire alla fine, insomma. Ripeto, non c'è da scandalizzarsi, uno può anche dire, insomma, è una delle ipotesi, insomma, noi non ne facciamo un dramma, però vorremmo sapere se alla fin fine è sostenibile riuscire a rimborsare il prestito del tesoro e non sia più ragionevole fare entrare il tesoro stesso nel capitale. Alle 18:18 minuti riprende l'ultima parte di Focus Economia. Allora, è anche l'ultimo pezzo di questa intervista con il numero uno del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Dicevo prima del traffico, ho capito, la vostra linea è quella di fare il possibile per ripagare il tesoro con la cedola e appunto con i contanti. Ha escluso l'ipotesi di aumentare il debito, però insomma, mi dico una cosa. Se non riusciste a rimborsare magari all'inizio, magari a un certo punto, il prestito del tesoro, sarebbe un dramma fare entrare il Ministero del Tesoro e quindi lo Stato dentro il capitale del Monte dei Paschi? Ma diciamo che da un punto di vista concettuale non è un dramma, poi da un punto di vista aziendale chiaramente l'obiettivo... Ma per lei sarebbe una sconfitta, sarebbe una sconfitta se il tesoro entrasse? Ma diciamo, sconfitta è una parola grossa, perché poi sa... un piano di rilancio, di risanamento e di rilancio di una banca delle dimensioni del Monte dei Paschi si misura alla fine, però diciamo che noi lavoriamo per evitarlo. Poi se dovesse succedere sarà una di quelle cose di cui prendiamo atto e andiamo avanti. L'obiettivo finale è quello di riportare la banca autonoma, sia da un punto di vista patrimoniale, finanziario che economico, in un orizzonte temporale che non è certamente un anno, ma se, però diciamo non è quello che volete, ma non sarebbe un dramma? I drammi io non ne vedo, i drammi sono di altro tipo, ecco, se vogliamo dirla così. Ho ancora due domande per lei. La prima però riguarda una cosa che non ho capito, perché lei in varie dichiarazioni nelle settimane scorse è stato molto duro con l'ex gruppo dirigente, ha detto niente sconti, saremo durissimi, chi ci ha traditi deve pagare. Ma perché non avete ancora affrontato il tema dell'azione di responsabilità, ossia che la banca Monte dei Paschi diventi, diciamo, parte civile contro i vecchi manager, visto il danno che secondo le indagini avrebbero creato la banca stessa? Allora, come lei sa, le azioni di responsabilità sia nei confronti dei manager che di altri organi amministrativi sono delle azioni che devono essere valutate e decise con la massima cura, perché in caso di errore, tra virgolette, possono danneggiare il soggetto che fa l'azione. Quindi non è un'azione che si può fare a cuor leggero, nel senso che bisogna essere consapevoli che se si sbaglia bersaglio, poi invece di fare l'interesse della banca la si danneggia. Quindi questa è la premessa. Dopodiché ho detto e ripeto che non ci saranno prudenze, diciamo, ideologiche, nel senso che non faremo sconti a nessuno, lo ripeto. Dal mio punto di vista era fondamentale chiudere questo capitolo della finanza, perché prima di avere le idee chiare e certificare i risultati, lei non può valutare lo step successivo, quello di valutare eventuali responsabilità. Quindi noi stiamo procedendo secondo una linea logica. È chiaro che nel valutare le azioni dipenderà molto dagli esiti delle indagini che stanno, stanno svolgendo, e anche da quelli che saranno i risultati di questa azione della magistratura. Quindi noi siamo alla finestra soggetti molto attenti e attivi nel difendere l'interesse della banca. Senta, ho ancora un paio di minuti scarsi, però mi dico una cosa. In realtà lei adesso, lei e anche Alessandro Profumo, siete più forti di prima, di un mese fa. Cioè, paradossalmente, il fatto che sia scoppiato questo bubbone e che si sia fatta pulizia rende più forte i nuovi manager, i nuovi vertici. Ma io credo che renda più forte la banca, più che le persone, nel senso che trasparenza e solidità, l'ho detto in più di un'occasione in questi giorni a tutti i colleghi con cui ho parlato, sono due ingredienti fondamentali per il lancio di una banca come il Monte dei Paschi. Poi è chiaro che se la banca è più forte, sono più forti anche i loro vertici, però credo che sia importante più che si rafforzi la banca più che le persone fisiche. No, è perché, voglio dire, meno male che questa cosa è emersa adesso, anche perché rischiavate poi di portarvela dietro, cioè, nel senso, fare pulizia doveva assolutamente emergere adesso. Lei sa che ogni qualvolta c'è un cambio di management in un'azienda, la prima cosa che si fa, soprattutto in un'azienda bancaria, è andare a guardare nei bilanci e capire. Ieri l'amministratore legato del banco di Desio ci ha detto che lui non ne vuole sapere niente di quello che era successo prima, è una banca più piccola, c'è un'altra storia di mezzo. Ho trovato un po' singolare la sua dichiarazione, perché in effetti quando arriva un nuovo manager la prima cosa che fa va a vedere i bilanci precedenti, non dice non mi interessa, certo, perché non c'ero. Lei se lo immaginava che di trovare tanta robaccia sotto il tappeto? Così tanta? Allora, io mi immaginavo di trovare dei problemi anche piuttosto seri, perché sono arrivato attrezzato a una nuova sfida professionale. Francamente gli ultimi fatti, le ultime situazioni non me l'aspettavo. Nemmeno lei, che non è proprio una no. demi-vierge, come dicono in francese, una mezza vierge, sapeva che sarebbe arrivato, no? Proprio non era Però non così, diciamo. Cioè, non era un pranzo di gala rimettere al posto Monte dei Paschi, però diciamo un'indigestione così forte non la immaginava? No, mi aspettavo qualcosa di un po' meno pesante. Vabbè, detto da lei che già partiva preparato, si figuri per noi. Un'ultima cosa, dottor Viola, ma secondo lei quello che sta emergendo in queste settimane che riguarda il Monte dei Paschi, ma c'è di mezzo un'inchiesta sulla BPM, il Banco di Desio, adesso non vorrei mettere assieme tutto, ma anche quello che è successo a Leni ieri, tutta un'altra storia, vedremo cosa porterà. Però qui in questo paese non c'è un tema, oltre che di rinnovo della classe politica, anche di rinnovo della classe dirigente dei grandi gruppi bancari, cioè il suo presidente Profumo ha detto che è stato un errore nominare per la seconda volta Mussari presidente dell'ABI, perché già i problemi si conoscevano. Ne è emersa un'immagine di un mondo bancario in cui cane non morde, non mangia cane, in cui tutto si tiene. Ecco, non è che ci sia un tema anche di rinnovo della classe dirigente vostra, oltre che della politica? Ma guardi, io credo che ci sia un tema sul quale noi dobbiamo, parlo come categoria, fare una riflessione per raccogliere degli insegnamenti su questi fatti, perché poi questi problemi possono anche essere positivi se aiutano a migliorarci. Devo dire che guardando all'estero, anche nei paesi finanziariamente più sviluppati del nostro, casi di questo sono stati all'ordine del giorno Forse la differenza tra l'Italia e altri paesi è da una parte la capacità di intervenire chirurgicamente in modo molto rapido e nel contempo la capacità di mantenere nel giusto ambito gli impatti di queste situazioni. Cioè ho trovato all'estero più compostezza. È vero che questa questione del Monte dei Paschi è scoppiata nel pieno di una campagna elettorale, quindi questo ha sicuramente costituito un elemento di amplificazione, però avendo visto altre esperienze in giro per il mondo, capacità di intervenire chirurgicamente e capacità di tenere la cosa nel giusto alveo degli impatti. Quindi per lei non c'è un problema di rinnovo della classe dirigente, in questo caso non in politica ma nel mondo dell'economia, della finanza? Ma rinnovo, c'è la necessità di avere una classe dirigente che sia adeguata a quella che è la responsabilità che abbiamo. Poi dopodiché rinnovo sembra non lo condivido, nel senso che sembra che dobbiamo mandare a casa un'intera classe e rinnovarla. Diciamo che c'è da fare in modo che quando succedono queste cose si intervenga velocemente, chirurgicamente e si giri pagina e per migliorarci. Io la ringrazio. Lei ha il conto corrente al Monte dei Paschi, immagino. Certo che c'è il conto corrente al Monte dei Paschi. Tutti basta. Miei risparmi al Monte dei Paschi. Quindi lei tranquillo, non li ha toccati questi risparmi? Sì. No, assolutamente no, e suggerisco di stare veramente tranquilli sotto quel punto di vista. Vabbè. Senta, in bocca al lupo perché sia lei che profumo, ma soprattutto lei ne avete bisogno. Grazie all'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola. Grazie mille, arrivederci. E a me non resta che dare l'ultimo aggiornamento da Wall Street. A questo punto l'America è positiva di uno 0,81%. Ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. A tutti voi un buon fine settimana, poi lunedì torniamo. Questa settimana è successo un po' di tutto, vediamo la prossima se facciamo più economia, più finanza o più cronaca giudiziaria, chi lo sa. Intanto ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.